dopo il 27 gennaio. Benissimo. Allora, ricordiamo Gli Invisibili di Klaus Rafle, in uscita in sala 25, 26, 27 gennaio 2018. Olga, un saluto e a risentirci Ciao presto. Federico.